direi subito di parlare dell'aspetto che tutti vogliono sapere in questo momento, che tutti vogliono risposte dalle domande che ci sono, quelle che ovviamente sono venute a tutti spontaneamente dopo questa, sia prima della guerra in Ucraina, quando è iniziato il gas ad avere un aumento esorbitante dei prezzi, e adesso ancora di più con le sanzioni, con tutto ciò che concerne questa guerra, sulle sue conseguenze, eccetera. La preoccupazione principale è che noi europei non siamo autonomi nell'approvvigionamento dell'energia. L'energia è qualcosa che ci fa andare avanti, è il motore primo di tutte le società. Senza energia non riusciremo ad andare avanti. L'Europa si trova in un'estrema difficoltà in questo momento, e come uscirne fuori non si sa, però innanzitutto cerchiamo, noi proveremo questa sera col nostro ospite appunto di chiarirci un po' le idee, da quali sono le pressioni, quali sono gli interessi, quali sono anche quantitativamente da un punto di vista energetico e soprattutto del gas naturale le quantità che ci sono in gioco nell'approvvigionamento energetico, quanto ci serve per andare avanti a livello italiano, a livello europeo, di quantità di metri cubi di gas nella fattispecie, come questo gas influisca nella transizione energetica, come la guerra, le sanzioni che in questo momento verranno attuate giocheranno contro questa transizione energetica, quanto frenerà. Una per tutte, a me mi si è accapponata la pelle quando ho sentito il presidente Draghi dire: ah, in questo momento forse avremo bisogno di riaccendere le centrali a carbone. Ma come? Dopo tutto questo grandi discussioni, soldi spesi dall'Europa, dal PNRR per parlare di transizione energetica, combattere il riscaldamento globale, a un certo punto Dan Black, così bam, il presidente Draghi dice: riaccendiamo tutte le centrali a carbone. Insomma, ecco, a me mi si è agghiacciata. Dire tutte, perché alcune sono già accese, certo. Accendiamone delle altre. Ah, quelle spente riaccendiamo. Insomma, è un problema enorme di cui non se ne scappa. Però ecco, io adesso taglio corto con le mie lucubrazioni e presento subito l'ospite, il nostro caro ospite. Che è già stato qui un po' di tempo fa, è un analista geopolitico da ormai di lungo corso, possiamo dire. Lui è Demosthenes Floros ed è responsabile energia del CER, che è il Centro Europa Ricerche, e anche docente al Master di Relazioni Internazionali di Imprese Italia-Russia dell'Università di Bologna, e poco tempo fa, ultimamente, ha scritto proprio un libro che secondo me bisogna leggerlo, perché cade proprio a fagiolo, come si dice. E il libro che ha scritto si chiama Guerra e Pace dell'Energia, due punti, la strategia energetica dell'Italia tra Federazione Russa e NATO, edizioni di Arcos. Ora, Demos, ci sei? Buonasera, ci sono, grazie per l'invito. Ci senti forte e chiaro? Sì, mi sento benissimo, voi? Sì, ciao Demos, certo che ti sentiamo, ciao, ben trovato. Grazie, ben ritrovato. In questo periodo ti seguiamo, sei pieno di interviste, ti intervistano a destra e manca, cioè ogni giorno penso che tu abbia un'intervista. E grazie per essere venuto qui da noi per insomma chiarirci un po' di questioni che adesso ti faremo subito così. Al volo, sì. le prime domande, le più urgenti. La prima cosa che a me, preparando questa trasmissione, ecco, innanzitutto diciamo, perché questo problema, come dicevo io prima, è un problema anteguerra, e cioè quello del fatto che in questi ultimi mesi abbiamo assistito a un grande aumento dei prezzi del gas. E la prima domanda che ti faccio al volo è: a che cosa è dovuto questo aumento prima della guerra? E insieme, collegata a questa domanda, è come l'Italia e l'Europa quanto gas prendono dalla Russia? E soprattutto, la domanda che ti faccio, può essere, come dicono adesso attraverso quello che sta succedendo, bloccando con le sanzioni, può essere sostituito questo approvvigionamento da parte della Russia da altri fornitori? Ecco, è possibile tutto ciò oppure no? Allora, sono tre domande molto impegnative. Io direi però di partire forse dalla seconda, in modo da poter dare qualche dato d'insieme per i nostri ascoltatori, e poi dopo ritorniamo alla prima e alla terza domanda. Allora, partiamo dal paniere energetico dell'Unione Europea 2020. Il 25% dei consumi di energia primaria dell'Unione Europea è stato soddisfatto dal gas naturale, quindi una percentuale significativa. La percentuale totale delle fonti fossili, visto che parleremo anche di transizione energetica, è attorno all'83%, quindi petrolio, carbone e gas naturale. Il gas naturale è il 25%, quindi un ammontare non indifferente. Le rinnovabili, ahimè, sono distanti al 5-6%. Se analizziamo questo 25%, noi osserviamo che il 40% circa di questi consumi di gas sono consumi di gas provenienti dalla Federazione Russa, quindi la Federazione Russa è il principale fornitore di gas dell'Unione Europea. Se passiamo al paniere energetico del nostro paese, l'Italia, la situazione si presenta in questo modo: il gas naturale soddisfa il 41% dei nostri consumi di energia primaria, è la fonte che utilizziamo maggiormente, quindi il nostro è un sistema cosiddetto gas intensive. Se escludiamo la Federazione Russa, che però ha grandi riserve di gas a differenza nostra e delle principali economie dell'Occidente, la percentuale dell'Italia è quella più alta tra tutte le economie, per cui noi siamo nel contempo quelli più colpiti da questo aumento di prezzo dell'energia ed in particolar modo del gas naturale. Casomai dopo potrò fornire anche qualche dato più conciso. Se andiamo ad analizzare questo 41%, ci rendiamo conto che il principale fornitore è la Federazione Russa, con anche in questo caso un 40% circa di copertura dei consumi italiani. Quindi, per quanto attiene l'Unione Europea e nel contempo per quanto attiene l'Italia, la percentuale di gas che utilizziamo è molto importante al fine di coprire i nostri consumi, e le importazioni dalla Federazione Russa sono significative, molto significative, così tanto significative, e qui vorrei essere molto chiaro, da non poter essere sostituite da nessun altro fornitore a livello mondiale, non solo nel breve periodo ma anche nel medio periodo, quindi non nei prossimi anni ma per i prossimi decenni. E vorrei subito chiarire che questo ammontare di gas, che ad esempio per l'Europa è stato di oltre 185 miliardi di metri cubi l'anno trascorso, più 5-8% rispetto al 2020, è per l'appunto un ammontare che non possiamo sostituire col gas naturale liquefatto, di cui qualcuno ha fantasticato, né quello proveniente dagli Stati Uniti né quello proveniente dal Qatar. Intendo proprio da un punto di vista dell'ammontare. Passo quindi alla prima domanda che mi hai fatto, Jacopo, e cioè quella relativa alle cause dell'aumento del prezzo del gas naturale. Allora, in base al primo rapporto sulla transizione energetica che abbiamo presentato come Centro Europa Ricerche al seminario Italia-Russia del 17 febbraio, quindi recentissimo, la scorsa settimana, noi abbiamo individuato una serie di cause che sono riconducibili a fattori di mercato, che sono riconducibili a fattori geopolitici e che sono riconducibili anche a fattori relativi alla transizione energetica. Ora, non possiamo analizzarli tutti quanti uno per uno, io toccherò gli aspetti più importanti di queste tre macro cause. La maggior parte dei nostri mezzi di informazione ci ha sostanzialmente detto che i prezzi sono aumentati perché è aumentata in maniera significativa la domanda dopo la crisi, la pandemia e la ripresa dell'economia e dei consumi. Ora, questo è sicuramente vero, insieme ad esempio alle condizioni climatiche che nel 2021 hanno visto un inverno più rigido. Però, se noi andiamo ad analizzare i dati, bisogna sempre partire da quelli, noi vediamo che a fronte di una domanda in aumento del 5% circa di gas naturale, nel mercato regionale europeo del gas naturale noi abbiamo avuto un aumento che ha sfiorato il 400%. Per cui questa discrepanza non si può spiegare solo ed esclusivamente con i fattori di mercato. Esistono anche altri fattori, e tra quelli geopolitici io ne evidenzierei uno in particolare e un altro sullo sfondo che ci interessa molto poi anche per analizzare meglio la questione ucraina. E cioè faccio riferimento alle modalità di cambiamento intervenute in merito all'acquisto del gas naturale dai vari fornitori. E senza entrare troppo in tecnicismi, possiamo dire che noi fino a poco tempo fa acquistavamo il gas con dei contratti che si chiamano take or pay, che avevano due caratteristiche. In primo luogo, il prezzo del gas naturale era cosiddetto oil index, cioè era indicizzato al prezzo del petrolio o di una serie di prodotti petroliferi, e il prezzo variava con 2-3 trimestri di ritardo in base alla variazione del prezzo del barile. Quindi sostanzialmente si aveva un prezzo stabile o perlomeno che si conosceva in anticipo e che permetteva in questo modo una serie di programmazioni degli acquisti di ammontari necessari, più o meno necessari, in base anche alla stagionalità. La seconda caratteristica di questi contratti era data dalla periodicità, cioè erano contratti di lunghissimo periodo, potevano durare anche 15, 20, 25 fino a 30 anni. Ebbene, su forte richiesta dell'Unione Europea, è bene precisarlo, e su contrarietà, nonostante la contrarietà della Federazione Russa e della Gazprom in particolare, l'Unione Europea ha chiesto due cambiamenti fondamentali. Il primo è l'abbandono dell'indicizzazione al petrolio, per cui siamo passati al cosiddetto gas to gas, cioè il prezzo del gas naturale si forma sempre con contratti cosiddetti take or pay, non entriamo nello specifico, ma insomma si forma dall'equilibrio tra la domanda e l'offerta. Nel contempo l'arco di tempo del contratto è stato notevolmente ridotto, non si hanno più contratti di lungo periodo, di lunghissimo periodo, ma contratti di breve periodo, se non addirittura spot. In sostanza il mercato regionale europeo del gas naturale ha ripreso le caratteristiche del mercato nordamericano, dove però sussiste una grandissima differenza, dove gli Stati Uniti sono momentaneamente, anche se su questo bisognerebbe essere più precisi, indipendenti da un punto di vista energetico, soprattutto grazie alla scoperta della tecnica produttiva estrattiva del fracking, mentre l'Europa, ricollegandomi a quello che dicevate all'inizio della trasmissione, è dipendente energeticamente dall'estero per il 60% dei propri consumi. Già questo è un aspetto che dovrà farci riflettere. Quindi il cambiamento nella modalità di acquisto della materia prima è la principale causa di questi aumenti di prezzo. Un altro fattore, a mio avviso, molto importante è stato, ahimè, anche l'abbandono del progetto South Stream, cioè quel gasdotto che è stato abbandonato nel 2014 in virtù delle pressioni americane sulla Bulgaria, che avrebbe permesso, attraverso appunto un gasdotto che univa l'Italia e la Federazione Russa, i Balcani e l'Italia come approdo, fornendo 63 miliardi di metri cubi di gas naturale, 16-18% delle forniture, che sicuramente oggi ci avrebbe fatto molto comodo, ma come dire, quel gasdotto non era gradito agli Stati Uniti d'America e invece per noi era molto importante, anche perché ci avrebbe resi hub gasiero dell'Europa centro e sud Europa, in complementarietà e non in antitesi con un altro noto gasdotto che unisce la Federazione Russa alla Germania e attraversando il Baltico prende il nome di Nord Stream, da cui poi il suo raddoppio, che è stato l'oggetto delle sanzioni dell'ultime ore. L'ultimo aspetto invece attiene alle rinnovabili, e cioè mai come nel 2021 abbiamo visto quelli che sono i limiti strutturali delle rinnovabili, che possiamo riassumere in primo luogo l'intermittenza, in secondo luogo la densità di potenza. Purtroppo le rinnovabili non riescono a sostituire, non riescono ancora a sostituire le fonti fossili. Per questo passaggio necessiteremo di anni, se non decenni, e soprattutto di tantissimi investimenti, da cui la domanda chi paga troppo spesso elusa. E addirittura i limiti di queste delle rinnovabili hanno in alcuni casi determinato un aumento dei consumi, della domanda e dei consumi della fonte più inquinante, cioè che emette più CO2, cioè del carbone. Perché nell'estate del 2021 il calo dei venti nel nord Europa ha per l'appunto determinato, ad esempio nel Regno Unito, un incremento della domanda di carbone, e quindi ricollego a quello che dicevate all'inizio trasmissione, su Draghi, del 3%. Quindi questi sono i tre macrofattori fondamentali. Allora abbiamo parlato appunto del anteguerra, diciamo così per intenderci, e adesso invece la questione è precipitata nel senso che c'è stata l'invasione dell'Ucraina da parte di Putin e sono scattate le inevitabili sanzioni da parte dell'Occidente, dalla NATO. Allora la prima domanda che ti faccio, Demostene, rispetto a questo è innanzitutto queste sanzioni quanto influenzeranno la questione energetica rispetto alla transizione ecologica, rispetto a questo problema enorme che dobbiamo affrontare, le sanzioni fatte appunto dall'Occidente nei confronti della Russia. La seconda domanda che va da sé è quella quanto le stesse sanzioni incideranno sull'economia interna russa, e da questo punto di vista che ruolo ha la Cina in questa situazione? Queste sono le domande principali. Sì, allora partiamo dalla prima. In primo luogo bisogna specificare un aspetto a mio avviso molto importante che potrebbe anche, anzi senza potrebbe, che ci aiuta forse a capire quello che sta succedendo in Ucraina, o perché siamo, per meglio dire, perché siamo arrivati a questo punto. Nel rapporto al quale facevo riferimento prima, noi arriviamo alla seguente considerazione. La transizione energetica necessiterà di decenni, e il combustibile che ci permetterà di fare questo passaggio tra le fonti fossili, che come dicevo all'inizio occupano ancora l'83% del nostro paniere energetico, verso le rinnovabili, che occupano attualmente il 6% del paniere energetico del mondo, questo passaggio sarà possibile grazie al ruolo ponte del gas naturale, per un motivo molto semplice, e cioè perché tra le fonti fossili è quello che emette meno CO2, e abbiamo molte riserve di gas naturale a livello mondiale. Potremmo andare avanti per poco più di 50 anni all'attuale livello di consumi, senza ovviamente scoprire nuovi giacimenti, ed è relativamente semplice da trasportare. Avrei aggiunto è meno costoso del petrolio, perlomeno fino al 2020, e questo invece questa considerazione nel 2021 è venuta meno. Per cui il fatto che l'umanità intera, in particolare l'Occidente, si trovi dinanzi al tema della transizione energetica e ci si renda conto che questo passaggio può essere fatto in primo luogo grazie al gas naturale e non solo al gas naturale, ci porta a una prima considerazione. I paesi che detengono le principali riserve di gas naturale al mondo ovviamente potranno esprimere un rapporto di forza superiore, diverso rispetto al passato. E quali sono i paesi che detengono le principali riserve? Beh, i tre principali paesi sono in primo luogo la Federazione Russa, e gli altri grandi due paesi sono il Qatar e l'Iran. Per cui immagino già che molti ascoltatori avranno capito dove vogliamo parare da questo punto di vista. È abbastanza evidente che qualcuno non abbia interesse affinché questi paesi, in particolar modo il primo che ho citato, possano giocare un ruolo a livello internazionale in virtù del fatto che detiene le riserve di quello che sarà appunto il combustibile fossile necessario per la transizione. Da questo punto di vista io evidenzierei un altro aspetto, qui arriviamo poco alla volta all'attualità, e cioè questa sorta di complementarietà e di interdipendenza che esiste tra l'Unione Europea, l'Europa nel suo complesso, in particolare il nostro paese, e la Federazione Russa. Cioè, da una parte abbiamo un sistema manifatturiero, a partire da quello tedesco ma anche quello italiano, che necessita di gas naturale. Se per un attimo non ricevessimo più il gas naturale dalla Federazione Russa, si stima circa il 60% della manifattura tedesca chiuderebbe. Questa percentuale giunge al 70% per quanto riguarda l'Italia, quindi rendiamoci conto delle conseguenze economiche che questo potrebbe avere. Ma nel contempo si tratta di un rapporto di interdipendenza, perché anche la Federazione Russa ha bisogno delle entrate derivanti dalla rendita mineraria. Il 60% circa delle esportazioni russe infatti riguardano l'energia, di questi un terzo circa riguarda il gas naturale, e circa il 40% del bilancio di Stato della Federazione Russa è coperto da entrate derivanti dagli idrocarburi. Quindi questo rapporto di interdipendenza, che sicuramente ha un passato, Italia e allora Repubblica Federale Tedesca importano gas naturale e petrolio dalla Federazione Russa dalla fine degli anni 60, quindi nel pieno della guerra fredda, e allora i sovietici, oggi i russi, non sono mai venuti meno ai loro obblighi contrattuali. Ebbene, questo rapporto nell'ambito della transizione energetica si andava sempre più saldando, e è evidente che questa complementarietà, seppur tra contraddizioni, non è condivisa dall'altra parte dall'altra sponda dell'Atlantico. Per cui, a mio avviso, la situazione in Ucraina, oltre che il grande tema dell'entrata o meno di questo paese nella NATO, e a mio avviso ovviamente questo è inaccettabile per quanto attiene alla sicurezza energetica dell'Europa, risente anche di altri piani, tra cui quello energetico che ho appena citato. Mi chiedevi della Federazione Russa e del rapporto con la Cina. E anche qui aspetti geopolitici ed aspetti energetici si incrociano, perché se noi vediamo analizziamo il paniere energetico cinese, anche quello indiano, a dire la verità, che ha caratteristiche simili, vediamo che il 56% del paniere energetico è coperto da carbone, e il 56% dei consumi cinesi sono consumi coperti da carbone. Quindi la Cina deve portare avanti questo immenso processo di cambiamento qualitativo del proprio paniere energetico, che fino a un decennio fa era del 66% per quanto riguardava il carbone, quindi è stato già fatto uno sforzo molto grande. Ma se ci rendiamo conto che il gas naturale è al 6-7% circa dei consumi di energia primaria cinesi, insomma, ci rendiamo conto di quanto c'è ancora da fare. E tra i principali fornitori della Cina, poco alla volta sta aumentando sempre più il peso della Federazione Russa, che con la Cina ha firmato dei contratti molto molto importanti, in particolar modo quello che è già attivo da un paio d'anni attraverso un gasdotto che rifornisce la Cina nord-orientale, che si chiama Power of Siberia, che trasporterà a regime 38 miliardi di metri cubi di gas. La scorsa settimana Xi e Putin hanno firmato un secondo contratto portando questi 38 miliardi a 48 miliardi, ma sono in programma altri progetti che uniranno i paesi e la Federazione Russa con la Cina nord occidentale per ulteriori 30 miliardi di metri cubi all'anno. Tenete conto che il primo contratto al quale riferimento ha fatto riferimento ha una durata di 30 anni, un valore stimato di 400 miliardi di dollari, quindi dei numeri e delle cifre molto importanti. Ci tengo a specificare, a precisare un aspetto: i nostri mezzi di informazione hanno presentato questo contesto geopolitico come la possibilità da parte della Federazione Russa di poter ricattare l'Europa vendendo gas naturale alla Cina e sostituendo quindi l'Europa alla Cina. Questo a mio avviso è errato. La Federazione Russa non ha intenzione di ricattare nessuno, anche perché la domanda cinese e asiatica è data in aumento del 100% al 2050, passerà esattamente da 720 a 1440 miliardi di metri cubi di gas all'anno, quindi uno stravolgimento veramente epocale per quanto riguarda i consumi di energia, ma sarà un passaggio graduale. Tenete conto che quest'anno sono stati circa 10 miliardi di metri cubi attraverso il Power of Siberia. Se noi pensiamo che l'Italia ne consuma 75 miliardi circa, ci rendiamo conto di come ancora l'Asia e la Cina, da un punto di vista della loro domanda di gas naturale russo, necessitano ancora di tempo. Però sì, è evidente, in prospettiva la Federazione Russa potrà e ha la possibilità, le forze per farlo, rifornire sia l'Europa, i cui consumi sono dati al 2050 come costanti, ma nel contempo la produzione interna calerà profondamente, significativamente, lo sta facendo da un decennio, con conseguente aumento delle importazioni, e a Oriente la Cina e l'Asia aumenteranno la loro domanda, invece aumenterà in maniera molto molto significativa. E qui un ultimo aspetto sulle questioni del gas, per essere precisi: la Cina e l'Asia orientale si riforniranno dai giacimenti, ne parlavate all'inizio di trasmissione, siberiani, ma quelli della Siberia orientale. Noi europei ci approvvigioniamo attualmente dai giacimenti nella Siberia occidentale, quindi si tratta di giacimenti diversi tra loro, ma la situazione in prospettiva cambierà, perché la Cina nord-occidentale, così come la Mongolia ed altri paesi, si approvvigioneranno di gas naturale russo estratto dai medesimi giacimenti da cui ci approvvigioneremo noi. Per cui la scelta dell'Unione Europea di cambiare i contratti e di passare dai cosiddetti contratti legati al petrolio a quelli a libero mercato, domanda e offerta, rischia di creare ulteriori tensioni, per cui è una scelta a mio avviso del tutto sciagurata, tant'è che le ricostruzioni che abbiamo letto nei nostri mezzi di informazione, o considerati tali, parlo dal Corriere della Sera ad esempio, che attribuivano responsabilità dell'aumento del prezzo del gas naturale alla Federazione Russa, dati alla mano, sono completamente falsi, perché la Federazione Russa nel 2021 ha esportato più gas naturale ed ha rispettato alla lettera tutti i contratti che l'Unione Europea le aveva chiesto. Anzi, dirò di più, un'ultimissima cosa a mio avviso interessante: pur nella drammaticità del contesto dato dai primi giorni del conflitto, nei primi 4 giorni le esportazioni di gas naturale verso l'Europa sono raddoppiate, passando da poco più di 50 milioni di metri cubi di gas al giorno a oltre 100 milioni dal 23 al 27 febbraio, nel pieno rispetto dei contratti. E addirittura i russi lo hanno fatto, in barba alle sanzioni sul gasdotto Nord Stream 2, utilizzando la capacità di trasporto attraverso l'Ucraina. Quindi un segnale da questo punto di vista, a mio avviso, che va analizzato, nel senso che i russi ci stanno dicendo: noi non abbiamo alcuna intenzione di tagliarvi il gas naturale, sappiamo che voi ne avete bisogno, noi abbiamo bisogno del vostro denaro, e forse è qualcun altro che ha interesse a rompere questa relazione. Ecco, Demos, questa era la mia ultima domanda che ti volevo fare proprio rispetto a quello che dici adesso. Quindi noi ci troviamo di fronte, diciamo un po', l'Europa si trova è schiacciata di fronte a una situazione da vecchia guerra fredda, ecco, per intenderci, in cui ci stanno gli interessi nel Nord America, degli Stati Uniti, poi c'è questa forte ingerenza anche che abbiamo sempre avuto, no, nordamericana, e ci sono questi grandi interessi dall'altra parte. L'Europa, da questo punto di vista, che ruolo secondo te può giocare? Oppure ci troviamo attraverso le sanzioni ci ritroveremo in un cul-de-sac? Oppure è solo una questione, diciamo, puramente, diciamo, formale, in cui comunque poi alla fine, come dicevi tu, facciamo le sanzioni, però alla fine il gas continuerà ad arrivarci in barba a quello che la NATO decide? Oppure questa alleanza sarà destinata a scricchiolare, ecco, l'alleanza NATO? Questo è un bel punto interrogativo. Collegandomi quindi anche alla questione SWIFT che mi ponevi in precedenza, per il momento l'energia è esclusa, perché sennò non ci potrebbero essere i pagamenti del gas naturale, ma anche del petrolio, perché non dimentichiamoci che l'Europa importa 2,5 milioni di barili di greggio al giorno dalla Federazione Russa, difficilmente sostituibili, più 5-6 milioni di prodotti raffinati di tonnellate, scusate, al mese, e questi sono prodotti difficilmente sostituibili, nel senso che difficilmente potremo trovare un altro fornitore, quindi non soltanto gas naturale. Il rischio, per andare direttamente alla tua domanda, alla risposta, il rischio è che l'Unione Europea sia quella che pagherà il prezzo più alto. Questo è il rischio concreto. Sicuramente la Federazione Russa, anche in barba alle ultime decisioni sul SWIFT, sta già pagando un prezzo, ma se devo guardare tra le due sponde dell'Atlantico, il prezzo che pagherà l'Unione Europea, che stiamo già pagando, a dire la verità, anche dall'anno trascorso, la guerra sta accelerando alcune situazioni molto gravi, penso non soltanto all'energia, ma pensiamo anche al settore dell'agroindustria, dell'alimentare, e la questione dei fertilizzanti, che è strettamente legata al gas naturale, quindi l'aumento dei prezzi, è il rischio che l'Unione Europea venga veramente stritolata da questo punto di vista qui. E io ritengo che sia necessario allargare lo sguardo, perché prima hai fatto riferimento a una situazione da nuova guerra fredda. Sì, ma con degli elementi di novità rispetto al passato. E a mio avviso l'elemento principale di novità è il sostegno aperto della Cina nei confronti della Federazione Russa, un sostegno che si sta manifestando in queste ore in maniera molto molto chiara, come mai avvenuto nel passato. Se pensiamo soltanto che nel 99, quando la NATO decideva di bombardare Belgrado, se vi ricordate, prima bombardava l'ambasciata cinese a Belgrado, sondando quindi quella che sarebbe stata la risposta cinese, che oltre ad uccidere un paio di diplomatici, e al tempo non poté essere che quella di una Cina che faceva un passo indietro, ma era una Cina la cui manifattura pesava sulla manifattura mondiale attorno al 6-7%. I dati di Confindustria oggi invece ci dicono che il peso della Cina sulla manifattura mondiale è oltre il 30, e il secondo paese per peso manifatturiero sono gli Stati Uniti, con circa la metà, 15-16%. Per cui è un mondo completamente cambiato da un punto di vista dei rapporti di forza, e credo che alcune delle situazioni che appunto colpiranno la Federazione Russa tramite la questione attorno al SWIFT vedranno un intervento finanziario da parte dei cinesi in aiuto alla Federazione Russa. Per cui io vedo un contesto internazionale dove da una parte abbiamo un blocco eurasiatico capitanato guidato dalla Federazione Russa e dalla Cina, e il tema dell'energia dell'ultimo anno ha probabilmente spinto i rapporti di forza in favore di questo blocco e a scapito del blocco asiatico, americano, euroamericano. Da questo punto di vista, Jacopo, io credo che l'Europa debba decidere cosa fare da grande. Se rimane ferma e subalterna agli interessi americani, verrà inevitabilmente schiacciata. E quindi io credo che nei mesi a venire, o non lo escludo, anche se adesso è molto difficile vederlo in maniera chiara, vista anche la propaganda imperante dei nostri mezzi di informazione, ritengo che a partire dalla Germania e dalla Francia necessariamente dovranno smarcarsi da alcune delle misure sanzionatorie che sono state imposte nei confronti della Federazione Russa, pena uscire da quelle che sono le aree economiche più forti del pianeta. Benissimo, Demostene, grazie. Insomma, grazie a voi. È stato proprio molto chiaro e niente, qui allora bisogna riflettere su questi dati, su questa, come dire, nuova situazione che si sta venendo a creare, tutto in divenire, quindi ne vedremo delle belle. Insomma, dovremmo stare molto attenti da questo punto di vista e cercare di capire anche sempre di più, insomma, come fare soprattutto come dicevamo sempre, nell'attuazione poi di una vera transizione ecologica, che poi è uno degli aspetti fondamentali a cui, insomma, l'umanità è destinata a fronteggiare, un problema enorme. Non so, Davide voleva farti una domanda, Demostene. Prego. Sì, io approfitto, insomma, di questo intervento così, così interessante e completo, che insomma ci dà modo di fare delle riflessioni, diciamo, meglio ponderate, ecco, in qualche modo, per fare invece una domanda molto scema, molto stupida, ma proprio perché voglio conoscere la risposta, davvero mi interessa la risposta, e approfitto, insomma, della presenza di Demostene, che è così competente in materia, e riguarda la riduzione dei consumi, no? Noi è una cosa che proviamo a proporre, no? Anche durante queste trasmissioni, come orizzonte quello della riduzione dei consumi, che chiaramente è molto complesso, no? da realizzare. Però a me adesso interesserebbe, da un punto di vista proprio tecnico, capire quanto è fattibile, quanto è proponibile, quanto invece non si tratti semplicemente di una fantasia, ecco. Allora, la domanda non è affatto stupida, è invece molto molto importante e troppo spesso sottaciuta. Per quale motivo? Voi parlate dei consumi e fate bene, e io allora vi chiedo: ma come vengono calcolate le emissioni di CO2? Perché questo nessuno lo dice, e si scoprono delle cose interessanti, perché noi le emissioni di CO2 le calcoliamo non in base ai consumi, ma in base alla produzione. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se la Cina è diventata la fabbrica del mondo, e tu da una parte l'accusi di essere la principale inquinatrice del pianeta, e tra l'altro dovresti calcolare in termini di individuo e non di paese nel suo complesso, tanto per essere seri, dovresti però calcolare le emissioni di CO2 non più in termini di produzione, ma in termini di consumi, per avere una visione corretta, perché è evidente che se tu hai trasferito tutta la tua manifattura dall'Occidente alla Cina, quel paese emerge come il principale emettitore. Si stima addirittura che il 40% delle emissioni cinesi sono emissioni di beni prodotti in Cina, ma poi esportati in Europa e negli Stati Uniti. E quindi questo è un aspetto poco conosciuto, non dibattuto, per evidenti ragioni di finalità politica e propagandistica. Vi posso riportare un altro esempio: i britannici si si vantano di aver ridotto le loro emissioni del 16-18% dal 1990, ma se noi calcolassimo le emissioni britanniche, e la fonte è un istituto di ricerca britannico tra l'altro, se non le calcolassimo più in termini di produzione ma di consumi, ecco che quel meno 16-18% diventerebbe più 16-18%. Quindi la prima cosa da fare è chiarire questo aspetto nel calcolo delle emissioni. Dopodiché voi mi ponete il tema dei consumi. Il tema dei consumi, a mio avviso, apre ad una domanda che prima o poi ci dovremmo riproporre, e cioè di che cosa abbiamo bisogno noi esseri umani realmente nel XXI secolo per avere una vita soddisfacente, perché secondo me questo è il punto dal quale partire. Quindi il punto è che cosa produrre, cioè che cosa ci serve realmente, dove produrlo e attraverso quali tecniche produttive e organizzative del lavoro, quindi sia il versante tecnologico sia quello organizzativo del lavoro. E questo tema che nel Novecento era qualcosa di normale e che poi la fine della Guerra Fredda pareva avere sepolto, ma che la transizione energetica ci ripropone in tutta la sua drammaticità, a mio avviso non può che riportare al centro il ruolo dello Stato in economia, il ruolo della programmazione economica e, se ci dobbiamo chiedere che cosa ci serve nella nostra vita, anche il tema, io lo dico, spesso sembra una parolaccia ma non lo è, della pianificazione. Per cui la domanda che mi poni è una domanda molto importante, alla quale io posso solo, come dire, dare una risposta, un accenno, e che però prima o poi dovremmo riproporre e riproporci.